al Hajj il pellegrinaggio maggiore. Il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, disse: al Hajj Arafah. Il pellegrinaggio maggiore è Arafah. Mentre all'Umra, come abbiamo visto nel capitolo precedente, può essere eseguita in qualsiasi momento dell'anno, il pellegrinaggio maggiore può svolgersi solo nel periodo fissato per l'espletamento dei suoi riti. I mesi in cui si può compiere il pellegrinaggio maggiore sono tre: gli ultimi tre mesi dell'anno lunare, Shawwal, Dhul-Qa'dah e Dhul-Hijjah. Ci sono tre tipi di pellegrinaggio, ma i giorni delle cerimonie essenziali hanno inizio il giorno 8 di Dhul-Hijjah, il 12° mese dell'anno lunare, e termine il giorno 13, sempre di Dhul-Hijjah. Il fedele che intende eseguire al Hajj, una volta giunto al suo miqat, si mette in stato di consacrazione ed esprime l'intenzione di compiere al Hajj, dicendo: Nawaitul Hajj lillahi ta'ala, cioè intendo eseguire il pellegrinaggio maggiore per Allah l'Altissimo. Il giorno 8 di Dhul-Hijjah il pellegrino deve essere a Mina, una località a qualche chilometro dalla Mecca, prima del mezzogiorno. Dopo aver eseguito il rito di adorazione dell'alba, Salatul Fajr, del giorno 9 di Dhul-Hijjah, Yawm Arafah, il pellegrino si mette in viaggio verso la pianura di Arafah, dove giunge verso mezzogiorno. Nella pianura di Arafah il pellegrino sosta, Ukuf Arafah, sosta in preghiera e adorazione fino al tramonto del sole. Al tramonto del sole il pellegrino lascia di corsa la pianura di Arafah, dirigendosi verso una località chiamata Muzdalifa. A Muzdalifa il pellegrino esegue in combinazione differita l'adorazione quotidiana del tramonto e quella del calar delle tenebre, quest'ultima accorciata. Dopo il rito di adorazione dell'alba, il pellegrino si reca, se possibile, a una montagna vicina, detta al-Mash'arul Haram, il sacro segnacolo, dove glorifica Allah, rifulga lo splendore della sua luce. Poi, dopo aver raccolto sette sassolini, discende a Mina e procede alla lapidazione di Satana, Ramion, lanciando le pietre contro il pilastro che rappresenta Satana, detto Jamratul Aqaba, dicendo a ogni lancio Allahu Akbar. È la mattina del giorno 10 di Dhul-Hijjah, il giorno del sacrificio, Yawmun Nahr, in commemorazione dell'obbedienza incondizionata e assoluta del profeta Ibrahim, su di lui la pace. È il giorno della grande festa, l'Eid al-Kabir. Il pellegrino dopo aver eseguito la lapidazione di Satana e aver partecipato alla preghiera della festa, la preghiera congregazionale della festa del sacrificio, immola la vittima sacrificale, la cui carne dovrà essere per la maggior parte distribuita ai bisognosi. Dice infatti Allah subhanahu wa ta'ala nella Suratul Kauthar: Inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanahar. Quindi, in base alla seconda aya di questa sura, il sacrificio viene eseguito dopo l'esecuzione del rito congregazionale della festa dei sacrifici. La lapidazione di Satana commemora l'episodio della cacciata di Satana a sassate come tutta risposta del profeta Ibrahim e del figlio Ismail alla tentazione satanica di disobbedire all'ordine di Allah, che aveva comandato a Ibrahim, al profeta Ibrahim, di immolargli il figlio unigenito Ismail. Il sacrificio commemora la benigna risposta di Allah alla prova di assoluta e incondizionata obbedienza del profeta Ibrahim su lui la pace e di Ismail su lui la pace pure, disposti al sacrificio umano ordinato dal Signore dell'universo. Infatti, Allah, potente ed eccelso egli è, ferma il sacrificio umano e crea un montone perché sia esso la vittima sacrificale al posto di Ismail. La vittima sacrificale ha da essere un quadrupede appartenente a una delle specie per cui è obbligatorio il pagamento dell'imposta coranica sul bestiame, cammelli, bovini, ovini e capre. Eseguito il sacrificio, il pellegrino si rade i capelli o ne taglia qualche ciuffo. Questo per gli uomini, mentre le donne accorciano i capelli della lunghezza della punta di un dito. A questo punto cessano tutte le limitazioni dello stato di ihram, a eccezione del rapporto coniugale. Il pellegrino smette l'izar e il rida e si mette in abito normale. Successivamente il pellegrino si reca da Mina alla Mecca per eseguire la circumambulazione della nobile Kaaba, Tawaful Ifada. Eseguito il Tawaf al-Ifada, il pellegrino sale a Safa ed esegue il Sa'i. Con il compimento del Sa'i, all'uscita di Marwa, il 10 di Zulhijja, cessa anche la limitazione dei rapporti coniugali e il pellegrino torna alla vita normale. Nei 3 giorni successivi, 11, 12 e 13 di Dhul-Hijjah, detti Ayyamut Tashriq, il pellegrino soggiorna a Mina, dove ogni giorno nel pomeriggio esegue la lapidazione di Satana ai 3 pilastri, incominciando dal più piccolo e finendo con il più grande, Jamratul Aqaba. È possibile limitare a 2 giorni la permanenza a Mina per la lapidazione di Satana e la partenza deve avvenire prima del tramonto del sole. Chi non riesce ad allontanarsi da Mina prima del tramonto del sole del secondo giorno della Yama Tashrik deve rimanervi anche per la terza notte. Prima di prendere la via del ritorno, il pellegrino passa per la Mecca, dove compie il Tawaful Wida, vale a dire la circumambulazione della nobile Kaaba del commiato. Il pellegrinaggio maggiore che abbiamo appena descritto si chiama Hajjul Ifrad, vale a dire il pellegrinaggio maggiore separato dalla Umra. Ci sono altre 2 forme di pellegrinaggio maggiore compiuto in combinazione con la Umra. Essi sono: 1. Il pellegrinaggio maggiore detto Tamattua; 2. Il pellegrinaggio maggiore detto Qiran. Il pellegrinaggio Tamattu. Il fedele, durante il periodo del Hajj, Shawwal, Dhul-Qa'dah e i primi 7 giorni di Dhul-Hijjah, assume lo stato di consacrazione e Haram solamente per il compimento del pellegrinaggio minore, Umra, senza avere con sé una vittima sacrificale. Una volta compiuta la Umra, esce dallo stato di consacrazione togliendosi l'uniforme del pellegrino. Il giorno 8 di Dhul-Hijjah, alla Mecca, assume un'altra volta lo stato di consacrazione per eseguire il pellegrinaggio maggiore, Hajj. Il pellegrino che ha compiuto il pellegrinaggio Tamattu'a deve immolare una vittima sacrificale. Pellegrinaggio Qiran. Il fedele che intende compiere Hajjul Qiran deve avere con sé una vittima sacrificale ed esprimere l'intenzione di eseguire congiuntamente la Umra e il Hajj con la stessa consacrazione, quindi compiere di seguito i riti della Umra e quelli del Hajj. Il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, disse: chi compie il pellegrinaggio per amore di Allah e si comporta senza dire parole indecenti e senza compiere azioni immorali, ritorna come il giorno in cui sua madre lo mise al mondo. E ancora: fate in modo che al pellegrinaggio, al Hajj, segua subito la Umra, poiché il pellegrinaggio e la Umra allontanano i peccati e la povertà come il martello rimuove la ruggine dal ferro, dall'oro e dall'argento. E ancora: per un pellegrinaggio accettato da Allah non c'è altro compenso che il paradiso.